Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Questo omaccione, grande, grosso, abbronzato e sul biondastro, dalla mascella squadrata e lo sguardo serio, non fa che fissare i bambini addormentati. All'inizio noi ci facciamo troppo caso, ma poco alla volta le cose cambiano. Ciao, sono Maura, 37 anni, vivo in provincia di Modena, lavoro come editor in una casa editrice, sono sposata, ho due splendidi bambini e mi piace molto viaggiare. Qualche tempo fa, quando ho incominciato a imparare ad andare in barca a vela, ho incontrato questo signore che tutti chiamavano il Baffo, non mi ricordo esattamente il suo nome, che frequentava la scuola di vela dove ho imparato. Era un signore di Legnano, però viveva gran parte del proprio tempo in Sardegna, dove aveva una barca. E da lui ho imparato una cosa: non ho imparato ad andare in barca a vela strettamente, non ci sono mai nemmeno andato, ma lui aveva un concetto della barca a vela che era quasi sacro. La sua barca era un oggetto quasi sacro e c'era tutta una cerimonia di sacralità. In barca potevi salire solo a piedi nudi. Le donne, c'è una vecchia credenza stupida tra i marinai per cui le donne portano sfortuna, non salivano sulla sua barca. Ogni volta che usciva c'era un rito molto particolare, un ormeggio prima, poi molla l'ormeggio dopo, prima la randa, poi il fiocco, al di là delle cose che si devono fare in barca, ma c'era proprio una sacralità, cioè era una forma di religione la sua rispetto alla barca. Vi racconto la storia del Baffo perché oggi parliamo di una storia che va da tutt'altra parte, che è la storia di un'ascoltatrice che avete sentito, che è Maura, che ha a che fare con la religione delle cose di tutti i giorni. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:10 in punto, è uno splendido martedì 28 ottobre del 2014, a Milano quantomeno è splendido, c'è una giornata bellissima con un sole ancora tiepido nonostante l'autunno ormai inoltrato. E la storia che vi raccontiamo oggi, quella di Maura, parla di genitori e di figli, ma parla soprattutto del modo in cui si vive quel rapporto con i propri figli, se sei genitore, ma anche col proprio cane, se sei un padrone di un cane, con la propria barca a vela, se sei padrone di una barca a vela, o con il proprio lavoro, se sei un professionista che vede il suo lavoro come una forma di religione. 349-238-6666 è il numero per inviare sms se avete voglia di condividere qual è la vostra piccola religione personale, qualcosa che fate in quel modo lì, con una sacralità totale e che per la quale ci sono dei dogmi. Voi fate quella cosa lì così perché si fa così e basta. 349-238-6666. Si parla di figli, si parla di un tedesco che è un pochettino, che come dice mia mamma, non ti paga l'occhio, cioè che c'è qualcosa di strano e poi alla fine in realtà tutto si svela. Parte come un piccolo thriller questa storia, la storia di Maura, e poi va tutta in un'altra direzione. Merano, 25 aprile 2014, ore 13. Sono seduta a un tavolone di legno con mio marito, mia cognata e il suo compagno. Accanto a noi i miei due figli di 3 e 1 anno e mio nipote di 8 mesi. È una bella giornata di sole e mentre il resto dell'Italia celebra la liberazione, qui, sui monti, 5 allegri omaccioni vestiti da tirolesi strimpellano e raccontano barzellette in tedesco da un piccolo palco allestito sulla riva del fiume Passirio. Il grande Edoardo è più posato, più riflessivo direi, più timoroso. Invece il piccolo è sicuramente più scatenato e più spericolato e anche più precoce per certe cose. Per me vederli crescere insieme è molto bello, è stupendo, perché si cercano sempre, perché giocano sempre insieme e hanno molti gesti d'affetto l'uno per l'altro. Per me sono dei piccoli momenti di felicità che non hanno prezzo. È una sorta di festa della birra. Nella tavolata alle spalle di mio marito, che è seduto di fronte a me, c'è una festosa combricola di una quindicina di tedeschi, uomini e donne fra i 45 e i 65. A un tratto, finito il primo giro di birre, quella che mi appare come un'accurata signora di mezza età, sfoggiando un largo sorriso e occhietti piccoli e spensierati, richiama l'attenzione della giovane cameriera dalle gote rosse. L'uomo più giovane della comitiva tedesca è seduto all'altro capo del tavolo. È proprio vicino ai nostri passeggini, in cui, per fortuna e nonostante l'allegro fracasso circostante, stanno dormendo i nostri bimbi più piccoli. Questo omaccione, grande, grosso, abbronzato sul biondastro, dalla mascella squadrata e lo sguardo serio, non fa che fissare i piccoli addormentati. All'inizio noi non ci facciamo caso, si sa che quando si sta molto tempo seduti a tavola e in occasioni del genere è normale dare un'occhiata in giro e magari fissare lo sguardo, anche senza volere, per forza, fermarsi su qualcuno. Ma poco alla volta le cose cambiano. Mio marito è la persona del nostro tavolo seduta più vicino all'omaccione e per fortuna è anche l'unico fra noi che parli un minimo di tedesco, quindi è in grado di interagire quando questo gli attacca bottone. È serio ma molto educato. Inizia a fare domande su di noi, di dove siamo, per quanto tempo staremo qui, quanti anni hanno i bambini. Non fa le domande tutte insieme, come se volesse sapere le risposte, ma avesse imbarazzo a sottoporre mio marito all'interrogatorio. Fa una domanda alla volta, fra una sua birra e un nostro piatto di patatine fritte con la senape. Ma il suo sguardo resta sempre più concentrato sui nostri figli. Ben presto a mia cognata si drizzano le antenne. Lei e il suo compagno hanno più o meno l'età di questo incuriosito signore. Lei, madre italica apprensiva, non vede di buon occhio gli sguardi insistenti rivolti ai bambini. Di quel tedesco così grande e grosso, cosa vorrà? Sarà un maniaco? Se ne sentono tante. Mio cognato, padre orgoglioso, sostiene la supremazia della razza italiana. Di sicuro quel tedesco è colpito dalla bellezza dei nostri bambini, dice. Io, non vedendo bambini alla sua tavolata, invece, penso che questo triste uomo abbia invidia dei nostri figli. Magari, poverino, lui e la sua compagna non hanno potuto averne e lui guarda con amore quei bei bambini che avrebbe voluto per sé, ma che la cattiva sorte non ha deciso di donargli. Mio marito, animo libero e godereccio, immagina invece che quel tedesco non abbia figli e non abbia nemmeno mai voluto averne, perché preferisce di gran lunga andare in giro a sbevazzare con la sua allegra brigata. Il tedesco avrà avuto circa 45 anni, era il più giovane della sua tavolata, era un uomo robusto, imponente, un uomo con le spalle larghe e la mascella squadrata, abbronzato sul biondastro, però quello che ci ha catturato l'attenzione subito è stato il fatto che avesse gli occhi puntati sui nostri bambini che stavano dormendo nei passeggini, aveva uno sguardo pensieroso e anche molto serio. Poi l'uomo ci fa la domanda che inizia a spiegare tutte le altre. Ma voi, quanti anni avete? Perché lui, che ha l'età dei miei cognati, di figli ne ha due, ma hanno più di 20 anni. Ed è un pezzo che girano da soli senza che i genitori debbano portarseli appresso. Lui era così incuriosito dai bambini al nostro tavolo perché non riusciva a capire che relazione di parentela ci fosse fra noi e loro. Ai suoi occhi, anche mio marito ed io, 38 e 46 anni, siamo troppo vecchi per avere dei bambini di 1 e 3 anni. Non vorrei esagerare, ma temo che, mentre ci stava squadrando in silenzio, avesse addirittura immaginato che fra di noi potesse esserci un nonno. La mia compassione per lui in un attimo si trasforma in profondo imbarazzo per noi, che ci sentiamo giovani a casa, ma qui, a quanto pare, non lo siamo affatto. In the sauce of remains of what was thought, put and said, all the calcified arithmetists were doing the math. And it would take a calculated blow to the head to light the eyes of all the homeless sociopaths. Oh, on and on, we are the homeless sociopaths. Oh, on and on, with all the homeless sociopaths. Calcium mines, you buried deep in your chest. Oh, calcium mines, you buried deep in your chest. Non è da solo Maura, ovviamente, nella foto che ci ha mandato e che trovate sul nostro sito, come al solito, radio24.it, la nostra pagina. Voi siete qui. Ci sono, ovviamente, il marito o compagno che sia e i due bambini. Sono in una stanza che immagino essere la stanza dei bambini e hanno la macchina fotografica probabilmente appoggiata su un tavolino, forse c'è qualcuno che sta scattando la foto. E la posizione, soprattutto del marito, è abbastanza plastica e molto divertente. Pronto, Maura? Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno, come stai? Benissimo, posso dire una cosa subito all'inizio? Certo, ti prego. L'età mia e di mio marito, abbiamo, in realtà avevamo 36 e 38 anni quando ti ho mandato la foto e il racconto, non 48. Ah, scusami, ho sbagliato a leggerlo. Perdonami, 38 e 39, sì, perché effettivamente saresti stati un... va bene farli tardi i figli, sì, però no, perché i miei cognati effettivamente sono un po' più grandi di noi, hanno 43-45 okay. anni, noi e... ancora siamo sotto. E il tedesco invece aveva l'età loro più o meno, esatto, giusto? Esatto, sì, aveva okay. circa 45 okay. anni lui. Okay. Senti, in questa foto dove siete? Nella cameretta, immagino, siamo dei tuoi figli? Siamo nella cameretta dei bimbi, e è un autoscatto. Ah, è un autoscatto. Fare un sacco di autoscatti, foto, sono un po' fissata. In cui ci sono anche loro, ovviamente. Certo. Guarda, Maura, visto che appunto la tua puntata, la tua storia parla di bambini e di genitori, tu come ti poni rispetto al dilemma del mettere le foto dei propri figli sui social? Perché in questi giorni sta un po' infuriando questa polemica. Vero, tu come la vedi? Se ne parla molto. Allora, in realtà io anche prima di mandare questa foto per Radio 24 ci ho pensato parecchio. È una cosa che io non faccio molto. Ho Facebook, ho un paio di foto dei miei figli in tutto, di quando erano ancora più piccolini di adesso. Ok, però in genere non lo fai? In genere non lo faccio perché è un argomento molto spinoso, sicuramente. Beh, indubbiamente. Che tra l'altro si ricollega un po' alla tua storia, nel senso che c'è una, a un certo punto, dicevo, la tua storia parte quasi come un thriller, cioè parte come una tranquilla giornata di gita, esatto. Poi diventa quasi un thriller e alla fine si risolve in un forse siamo noi che siamo gli imbecilli a esatto, pensare. Esatto, avevamo preso una cantonata terribile. Dove eravate esattamente? A Merano? Eravamo a Merano, in centro, lungo il fiume. Ed era il 25 di aprile di quest'anno? Sì, sì, sì, proprio 6 mesi fa. È un posto che frequentate abitualmente o ve l'avete fatto una gitarella? Ci andavamo molto spesso prima che nascessero i bimbi. Da quando sono nati i bimbi, questa è solo la seconda volta che andiamo. Da quanti anni hanno, me lo ripeti, scusami? Allora, ora hanno quasi 2 anni e 4 anni. Okay. Quando siamo andati avevano appena compiuto 1 e 3 anni. Maura, mi dici come è cambiata? Allora, fare una domanda come questa a una donna è sempre delicato, no? Perché uno dice come è cambiata la tua vita da quando hai dei figli? È cambiata completamente, di solito la risposta è immagino, ok. E per lo più in positivo, giusto? Perché sono una gioia, perché è una nuova vita. No? Certo, certo. Ti sta suggerendo le Grazie, apprezzo molto. No, è stata completamente stravolta, però era qualcosa che volevo. Ok, c'è però qualcosa che a freddo, non dico che non vorresti facesse parte del pacchetto, però una cosa che rimpiangi del fatto di quando non c'erano loro e quando eravate solo tu e tuo marito? Rimpiango la mia valigia Ryanair. Ok, che è la valigia pronta per partire? Assolutamente sì, viaggiamo quella che molto, si infila, molto di più. Quella che si infila nello spazietto al check-in, esatto, che se si infila esatto, lì puoi caricarla. Esatto, proprio quella dei 2 jeans e una maglietta. Adesso avete comprato la Station Wagon? Esatto. Ma avete anche la cassa da morto sopra, quella dove si mette tutto? No, quella no. Però arriverà. Aspetta, ho scelto la macchina in base al baule. Certo. Ho calcolato quale avesse il baule più grande. Giù, siete andati a misurarla. Guarda, mia sorella l'ho vista domenica incinta, mi ha fatto vedere che ha preso una macchina perché diceva, quindi abbiamo provato il passeggino e ci stava nel bagagliaio. Via, venduta. Maura, invece scusami, tu dici fai l'editor in una casa editrice? Sì, esatto. Che mi puoi dire qual è? La Panini, figurine. La Panini, quella delle figurine, beh, insomma, che è un pezzo della vita di qualsiasi ragazzino, di fatto, la Panini. Assolutamente, è un pezzo di storia italiana. È un pezzo di storia, ti sei allargata, c'è l'ufficio stampa che ti ascolta, di la verità, Maura. Si capisce molto, vero? No, tu cosa sono fai? Orgogliosa. Beh, lo immagino, ha voglia, anch'io lo sarei. Che cosa, non come lavorare solo 24 ore, ovviamente, però ovviamente. Mi dici che cosa fa un editor per la Panini? Ah, è un lavoro molto complesso. Scegli creativo. Le facce dei giocatori, questa sì, questa no, qua sorride. Guarda, troppo. Questo è quello che fanno i miei colleghi, quelli dell'ufficio di fianco al mio. Okay. Io mi occupo della parte dei cartoni animati e dei film, delle serie TV, delle pop star. Ah, ma perché ci sono anche queste? Perdonami, io ho perso un po' di vista, devo dire. Lo amico so, Mauro, hai fatto solo calciatori per gli ultimi 20 anni. Ma senti, ma è vera la storia che si dice che un po' come la storia del feroce Saladino e della Perugina, che si dice che alcune figurine, proprio per renderle più preziose, vengono stampate in numero minore rispetto ad altre? Non è vero assolutamente, è una bufala. Questo lo diciamo totale, per l'ufficio stampa all'ascolto, ma certo, ma figurine. No, te lo posso garantire perché le vedo io. Ah, le vedo. Ma sì, si gioca tipo a bilico in ufficio con le figurine contro il bilico. Bilico è quando tiri la figurina contro il muro e quella che rimane in bilico tra muro e pavimento vince, il bilico. Guarda, diciamo che forse ci si gioca alle elementari. Perfetto. In ufficio noi no, non lo facciamo. Spero, mi auguro che lo facciano i bimbi. Maura, ti saluto con un messaggio di Enzo da Varese che dice: Maura fa le figu. Grazie mille. Ciao Maura, in bocca al lupo. Ciao, ciao. Grazie mille Matteo. Ciao, ciao. Grazie a te. Perché io sono nell'età ormai da mo' in cui i bambini nascono e crescono intorno a me, no? E li vedi figli di amici, di parenti, e ci sono anche amici molto cari che all'improvviso cambiano radicalmente, che non si vedono più o si vedono meno in giro e si trasformano in persone un po' diverse, sia quando sono con i figli e sia quando sono con gli altri. Da 2 anni ho anche un cane e quindi frequento, gioco forza, le persone coi cani. E oltretutto, da qualche tempo, forse ve l'ho accennato, mi capita di andare a correre, quindi mi capita di incrociare gente che corre. Categorie. Ecco, queste 3 categorie sono accomunate da un modo di sentire e di vedere se stessi e gli altri che è simile a una forma quasi religiosa. Vi spiego. Queste 3 categorie, appunto, genitori con figli, padroni con cani e corridori, si concentrano in alcune zone precise della città. Sono i parchi. Quello più vicino a casa mia è Parco Ravizza. Parco Ravizza è composto grosso modo da 3 aree. Quella per i bambini, che è recintata con il pavimento morbido ai giochi. Quella per i cani, pare che sia l'area cani più grande di Milano. E poi i sentieri per i corridori a piedi. Poi ovviamente c'è un sacco di altra gente che ci passa attraverso, che ci staziona sulle panchine, che legge, mangia, dorme o pomicia. Ma queste 3 categorie in particolare si sono come impossessate del parco. Quindi le mamme organizzano feste di compleanno all'aperto e urlano in continuazione ordini in tutto disordine. I padroni dei cani sono amici tra loro e si identificano attraverso il nome del cane. Ma guarda chi c'è arrivata Polly, briciola, guarda, guarda chi c'è, c'è Napoleone. I corridori invece corrono tutti nella stessa direzione e non ridono mai. Parco Ravizza è in qualche modo un luogo di religione, perché si praticano con estrema serietà e con estrema devozione la religione della corsa, quella dei cani e quella dei figli. Io la vedo un po' così, che qualcosa si trasforma in una forma di religione quando sceglie lei per me. Cioè quando io abdico alla possibilità di decidere demandandola a qualcuno o a qualcos'altro, per cui sai com'è, da quando sono diventato papà ho venduto la moto. Oppure, viaggio un po' di meno perché mi spiace tanto lasciare a casa il cane. Ah no ragazzi, non riesco a venire a cena perché stasera ho il lento lungo di 20 km con ripetute finali. E poi ovviamente di conseguenza lei su Facebook. Foto del cane che dorme a pancia in su sul divano e commento: qualcuno ha deciso di mettersi comodo. 50 like, 12 commenti, 2 condivisioni. Foto del bambino con il grembiule e la cartella, oggi anche trolley, e commento: pronti per diventare grandi. 170 like, 52 commenti, 10 condivisioni. E per finire, foto delle scarpe da corsa consumate e commento: mi avete portato dappertutto. Grazie. 10 like soli, di solito tutti e 10 di corridori. Ora che ogni tanto vado a correre, quindi, ora che ho un cane e ora che sono ormai in età genitoriale, ricordarmi sempre di stare un passo indietro. Perché le religioni invece ti obbligano a tenere sempre entrambi i piedi dentro. Quindi questa settimana niente corsa, non faccio figli e al cane raziono il cibo. E alla fine, dalla storia di Maura, ho capito che primo, i tedeschi sembrano sempre molto seri, severi e pericolosi. Secondo, i tedeschi a volte possono essere molto diversi da quelli che sembrano. Terzo, immaginarsi i motivi per cui un adulto guarda un bambino può essere molto fuorviante. Quarto, se passate da Parco Ravizza, date un'occhiata in giro. Quinto, le feste della birra ormai sono diventate luoghi per gente coi bambini. Mi scrivo innanzitutto che la cassa da morto sul tetto della macchina si mette solo al terzo figlio, quindi Mauro te l'hai messa con grande anticipo. E poi ancora, ti consolo caro mio, dopo il secondo figlio mi sono comprato il quad, che è quella roba a 4 ruote, che è un po' una roba democristiana, Davide, obiettivamente, però va bene. Ciao al Valentino di Torino, ci sono quelli che corrono col cane o spingendo il passeggino e questi hanno vinto, ma vince su tutti il proverbio austriaco che mi arriva da Ettore di Bergamo, che dice a proposito di questa puntata di di molte altre cose, a volte alla porta sembra che ci sia il diavolo, spesso è soltanto lo spazzacamino. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini, grazie a Mauro Pescio e ovviamente grazie alla nostra Miriam Lucchetti. Niente, ogni tanto perdonami Miriam, sei la nostra assistente più brava che abbiamo mai avuto, altro che Margherita Ina che adesso starà facendo altro nella vita, però ogni tanto mi si inceppa il nome. Grazie soprattutto a Mauro, salutiamo Margherita Ina ovviamente che è stata la migliore di tutte. Grazie Maura, la stella di oggi era la sua e anche lei è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Giovanni Ricca, vivo a Saronno. La storia di domani è la mia, si parla di una partita di pallone che mi ha insegnato molto nella vita e mi ha aiutato parecchio nel mio lavoro. Questa è la mia storia e io sono qui.